Europa 24. E un saluto anche da Gigi Donelli. Dunque, oggi partiamo da una lettera da Bruxelles, un po' il titolo e la sostanza è cambiare passo sui ricollocamenti. Vi ricordate i ricollocamenti? C'è stato un momento in cui sembrava che l'Europa si dovesse mettere in movimento per distribuire appunto chi da sud doveva andare a nord o all'est dell'Unione 28. Beh, le cose sono andate diversamente. Oggi ne ha parlato Avramopoulos, che è il responsabile, ovviamente commissario europeo per la migrazione. Il servizio. Dagli hotspot ai ricollocamenti fino al piano di azione con la Turchia, la Commissione europea mette nero su bianco raccomandazioni e puntualizzazioni con l'obiettivo di far pressione sugli Stati membri perché accelerino sull'attuazione delle misure per gestire la crisi dei migranti. Il commissario all'immigrazione Avramopoulos lancia un grido d'allarme: abbiamo perso troppo tempo e non è accettabile. Dobbiamo più che mai rafforzare il nostro impegno con azioni forti affinché le misure concordate vengano adottate. Bacchettate in particolare a Italia e Grecia, questi paesi hanno compiuto sì progressi, ammette il commissario, la situazione sta migliorando ma devono ancora assicurare che tutti gli hotspot siano attivi. Per l'Italia ritardi su Augusta e Porto Empedocle, i cui piani non sono stati ancora finalizzati, mentre sui ricollocamenti il nostro paese è ancora indietro rispetto all'obiettivo di 39.600 rifugiati in 2 anni, ma in tutta Europa il numero dei ricollocamenti è ancora basso, per questo il commissario ha spedito oggi una lettera a tutti i ministri dell'interno europei chiedendo di cambiare marcia, rapporti che serviranno da base per il vertice europeo della prossima settimana. L'Italia invece può stare tranquilla per ciò che riguarda le impronte. Quando ci sarà la prossima valutazione sulla procedura di infrazione per la mancata raccolta, ha detto Avramopoulos, non ci sarà nessuna nuvola su questa questione. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Continua ad aumentare la quota delle energie rinnovabili nel mix delle fonti di produzione in Europa, così i dati diffusi da Eurostat, che tuttavia non forniscono indicazioni su quello che potrebbe essere l'impatto del collasso dei prezzi del petrolio. Il rapporto diffuso oggi spiega che nel 2014, quando la quota delle rinnovabili aveva raggiunto il 16%, siamo passati al 17,3% in Italia, la quota è salita al 17,1% dal 16,7%. Insomma, si cresce. Eppure la sensazione è che in qualche modo, anche per una serie di iniziative legate agli incentivi, si sia perso un po' l'abbrivio e magari anche di vista l'orizzonte dell'impegno 2030, che ricordo punta al 27% del rinnovabile in Europa. Abbiamo chiesto un parere su questo all'europarlamentare della sinistra democratica, Patrizia Toia, la sentiamo. Nel piano Juncker, cioè in questo famoso fondo per investimenti strategici che è stato costituito con un fondo di garanzia perché ci siano investimenti, per garantire investimenti meno remunerativi che magari le banche già finanziano di loro perché hanno una bancabilità più facile, noi abbiamo messo 3 cose dentro. Abbiamo messo l'innovazione tecnologica per le imprese, abbiamo messo tutta il digitale, le reti digitali e abbiamo messo, la dico per terza ma forse era la prima, come Parlamento abbiamo detto, dovete andare sul finanziamento di reti energetiche finalizzate allo sviluppo delle rinnovabili. Quindi è una priorità anche per gli investimenti e direi che insomma, se guardo gli ultimi atti dell'Unione Europea e quelli a venire come la direttiva sulle rinnovabili, non mi sento di dire che in Europa ci sia un momento di stasi su questo obiettivo, proprio no. A Mosca, ora, dove prosegue il Prodexpo, la principale fiera alimentare di Russia, dove un drappello italiano si preoccupa della protezione del Made in Italy. Ora ad agitare la possibilità che sia liberalizzata a livello europeo la denominazione d'origine. Ora sentiamo Ambrogio Manzi, direttore dell'Enoteca regionale dell'Emilia-Romagna, intervistato da Laura Bettini. L'Europa, secondo me, non sta tutelando, ma perché evidentemente non riesce in questa fase a tutelare tutto. Io credo invece che noi come italiani dobbiamo fare una battaglia presso gli organismi nostri italiani affinché facciano sentire la propria voce in Europa tramite loro, i nostri rappresentanti, affinché le nostre produzioni di qualità vengano tutelate. E quindi non è possibile per esempio che venga piantato un lambrusco fuori dalla zona di produzione come adesso. Se noi liberalizziamo anche la piantagione dei vitigni fuori, questo diventa un problema. Ed è tutto per questa edizione, torniamo naturalmente domani alle 14. Un saluto. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.